Ti fa più paura la violenza o la solitudine? La solitudine. Quale solitudine? Quella che ti appare come tale, cioè quella interiore, quella che non è necessariamente un riscontro con la realtà, è la solitudine che senti all'interno di te, cioè, chiaro. Associa un oggetto o una parola alla parola violenza. Emozione. Sei mai stato violento? Tutti gli esseri umani sono violenti. Contro chi o contro cosa, se riesci a identificarlo? Contro se stessi. C'è differenza tra uomini e donne? Sì. Ti senti uomo o donna o un po' entrambi? Associo un aggettivo alla parola uomo e uno alla parola donna. Azione per l'uomo. Estetica per la donna, o bellezza, bellezza più bella, bellezza per la donna. Non bellezza fisica sottintesa, ovviamente, penso sia chiaro, sì. Pensi sia possibile che tu un giorno ti scopri Posso o aggiungere una diventi? cosa? Azione e bellezza secondo me coincidono. Pensi sia Fondamentale. possibile che tu un giorno ti scopri esattamente il contrario o diventi esattamente il contrario di uomo? Il contrario di uomo, e qual è il contrario di uomo? La Donna. donna, no, non è il contrario di uomo, la donna, non sono d'accordo. No, non mi stupirei, ho attraversato cambiamenti ben più radicali. E ti spaventerebbe? All'inizio certamente sì, ma penso che mi adeguerò, mi adeguerei. Cosa ti suscita l'idea di vedere un corpo nudo? Dipende il contesto. Se fosse un corpo di donna o se fosse un corpo di uomo, sarebbe la stessa cosa? La stessa risposta di prima. Dipende ovviamente dipende il contesto. Cambia, cioè il contesto fa cambiare il significato a qualunque cosa, quindi non, se mi dispiace ti do la stessa risposta su due domande, ma faccio fatica. Cosa o chi ti fa arrabbiare? La rabbia è una delle emozioni di base della nostra personalità e quindi la rabbia in genere scatta ogni volta che hai la sensazione che un tuo diritto venga privato. Quindi in linea di massima il problema che mi pongo ultimamente è: ma è veramente un diritto? Oppure mi arrabbio perché il bambino che c'è in me fa sì che mi arrabbi. L'adulto si arrabbia per reagire a un diritto privato. È difficile capire se ci sono dei diritti leciti o dei diritti. No, io posso pensare di avere il diritto di guadagnare 10 milioni al mese, ma se ci penso bene non ho un diritto. Cioè, questo non è un diritto. Ci sono altre cose che potrebbero essere un diritto, se vuoi, insomma, la libertà di pensiero, queste cose qui. Insomma, io cerco di essere molto sintetico e dimmi se sono troppo sintetico, perché Va se benissimo. no parlo E fino alla domattina. cosa fai quando sei arrabbiato? Mi chiedo, ma sono arrabbiato per un reale diritto? Oppure no? Il più delle volte la risposta è no. Associa una sensazione alla parola rabbia, una sensazione. Calore, fuoco. Hai mai paura? Oh, tutti i giorni, orgogliosamente. Di cosa? Di cosa? La paura, viceversa, è la seconda delle emozioni di base, delle 4, 6, 8 dipende, le emozioni di base. La paura ovviamente è quella cosa che ci mantiene in vita, per cui molto spesso noi siamo aggrappati alla nostra vita, inteso non solo fisica, ma inteso anche con quello che facciamo, le relazioni che abbiamo, quindi che qualcuno o qualcosa possa modificare in maniera negativa quello che ho. Quindi la paura che la situazione, le cose positive che uno abbia nella propria vita, tra cui la vita stessa, ti venga danneggiata o privata. Quindi hai paura che la vita venga La danneggiata? vita, non tanto come vita, come si può dire, fisica, ma anche la vita di relazione, la paura di perdere una persona cara, la paura di qualcosa che sia invalidante, la paura che non puoi più fare le cose che ami perché ci sono delle condizioni che sono cambiate, quindi in questo senso, sì. Cioè non la vita, come si può dire, materiale, basta, ecco. E quando senti una paura forte, cosa fai? E Mi chiedo, ma c'è veramente un pericolo? quando sei felice, cosa fai? O cosa La senti? felicità è la terza, ho fatto tutte quante le emozioni di base, state facendo. La terza, e lo faccio anch'io, sono mestiere, cioè, la terza delle emozioni di base è la gioia, che è il premio, la consapevolezza del premio, quindi chiaramente è il momento in cui finalmente sei felice. Prima abbiamo parlato di paura, abbiamo parlato di rabbia, sono emanazioni negative che ci pesano finalmente. C'è la terza che è il premio, sono premiato perché ho fatto una cosa fatta bene, premiato perché sono soddisfatto di quello che sto facendo. E tu cosa fai quando sei felice? Niente di diverso, cioè, però di sicuro senti una gratificazione che ti fa andare avanti, cioè rafforza l'impressione, la presunzione che quello che stai facendo è positivo, quindi è un rinforzo, senza quello un po' ci si spegne. Hai mai subito violenze o soprusi? Sono più quelle che ho fatto, non quelle che ho subito. Qual è il primo episodio che ti viene in mente, agito o subito, nella tua esperienza? Voler prevaricare il pensiero degli altri, di volerli manipolare affinché possano essere, diciamo così, tra virgolette, utili a un mio scopo, raggiungimento di un obiettivo o che sia. Queste sono le violenze, credo, più grandi che ci facciamo. Violenza fisica no, perché non mi appartiene, cioè non è nelle mie. Sono abbastanza immunizzato da 42 anni di judo. Cioè, picchio Davide, insomma, se proprio devo picchiare qualcuno. Adesso sto scherzando, ma in parte è vero, in parte Con una parola, qual è secondo te il confine della persona? è vero. Oh, cacchio. Bello. A me piace molto una definizione che mi disse una persona tanto tempo fa, che è come se l'essere umano fosse una piccola pellicola tra un universo che c'è dentro di noi e l'universo che sta fuori di noi. E c'è questa sottilissima piccola pellicola, fortemente permeabile, per cui è estremamente difficile pensare che il corpo finisca con la nostra pelle. Probabilmente la pellicola è più quella famosa aurea, no? Se diciamo così, e si può estendere anche a più persone, cioè puoi riuscire in certe situazioni, era Sartre che li chiamava le situazioni privilegiate, no, in certe situazioni privilegiate puoi addirittura avere una sensazione che non sei solo questo corpo, ma sei questo corpo più il corpo delle persone che ti sono vicine, più non solo le persone che ti sono vicine. Quindi credo che questo sia. E purtroppo da questo aspetto siamo sempre molto distratti dalla quotidianità, che ci porta un po' lontano da questo aspetto qui. E da lì poi che nasce probabilmente il sopruso. Cosa ti fa sentire protetto e sicuro? Non credo di aver mai cercato di essere protetto o sicuro. Nelle cose più quotidiane, nelle cose più piccole, il poter rimanere solo, il poter rimanere in silenzio, poter non dare prestazioni. Dagmar è un libro bellissimo, stupendo, il nostro bisogno di consolazione, stupendo. Che è la capacità di non dare prestazioni, vivo e basta. Impossibile. Era bellissimo. Vabbè, scusa Me lo se segnerò. Dagmar, sono 10, 20, 40 pagine, secondo me bellissimo. Come si chiama? Dagmar è morto suicida dopo aver scritto il libro, ma a parte quello, è bellissimo. Lui Lo proprio leggerò parla anch'io. L'essere umano, l'infante essere perfetto, non può dare l'essere, non può dare, vive, basta, bellissimo. Lo spiega molto meglio. E per ultimo, quando senti necessario un abbraccio? Non mi ricordo il nome dello psichiatra che diceva abbracciatevi 7 volte al giorno. Insisto, io faccio judo, ci abbracciamo 70 volte al giorno. Cioè, per me l'abbraccio, io mi devo contenere dal fatto che chi non ha una corporeità, ma penso anche con la danza sia simile, e bisogna cercare di essere molto attento, perché a me viene naturale toccare una persona, cioè proprio non ci trovo, anzi faccio fatica a parlare con una persona senza mettergli una mano, perché quella mano mi comunica, mi fa sentire, mi piace, quindi l'abbraccio ancora di più, per cui diciamo mi controllo, diciamo, nel certo senso, mi limito, con la parola esatta, mi limito nella vita quotidiana. C'è gente che non ti dà la mano, c'è gente che gli dà fastidio, lo vedi, per cui io non gliela do, per rispetto, giustamente, a proposito del rispetto, no? Però credo che l'abbraccio, il contatto fisico, è quello che dicevi prima, no? Cioè il corpo, cioè il corpo finisce qui, allora non hai bisogno di abbracciarti, ma se il corpo va oltre, io sento questa necessità, però insomma, ci abbracciamo talmente tante volte. No, ma non sto scherzando, è vero, cioè, ti manca proprio il contatto fisico. Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie.